I can see her eyes looking from the page of a magazine. She makes me feel like I could be a tower, big strong tower, yeah. The power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah. Suddenly I see. She got the power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah. Suddenly I see. She got the power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah, yeah. Suddenly I see. She got the power to be, the power to give, the power to see, yeah. Eccoci, siamo arrivati anche noi. Buona domenica a tutti. Sono le 12, quasi l'ora di pranzo, e noi vi accompagniamo fino alle 13, poi andiamo a pranzo anche noi. Ebbene sì, io mi chiamo Emanuele e starò insieme a voi per la prossima ora, insieme a questo bellissimo nuovo programma che si chiama Movieland. Movieland è la radio al cinema, che vuol stare a significare che vi porteremo tutte le ultime notizie fresche da Hollywood, ma anche dal cinema italiano e dal cinema indipendente italiano. Vi faremo conoscere i mestieri del cinema, parleremo di cinema e ascolteremo canzoni di cinema come questa che è appena passata. Questa è Katie Tunstall con Suddenly I See e proviene direttamente dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada. Ve la ricordavate? Bravissimi. Benissimo, noi continuiamo ancora però con un altro pezzo di musica da film, un pezzo che viene da lontano, viene dal 1939, era stato scritto per la colonna sonora del Mago di Oz e lo cantava prima Judy Garland. Adesso è stato rivisitato da una cantante italiana che non ne possiamo più di vederla negli spot della Team, ebbene sì, Chiara Gagliazzo con Over the Rainbow. Over the Rainbow, da qualche parte oltre l'arcobaleno ci siamo noi con Movieland. Benissimo, e questa appunto è una canzone che arriva da lontano, rimasterizzata, riproposta in chiave moderna. Non solamente musica è Dreamland, come abbiamo detto, quindi anche notizie cinematografiche come questa, per la quale Mel Brooks è stato insignito del premio alla carriera. Infatti, vabbè, la carriera di Mel Brooks è abbastanza lunga, abbastanza riconosciuta e riconoscibile. Infatti, è l'autore di Frankenstein Jr., The Producer, Balle Spaziali, eccetera, eccetera. Ebbene, Mel Brooks riceve il Live Achievement Award, premio alla carriera assegnato appunto dall'American Film Institute. Alla serata hanno partecipato personaggi del calibro di Martin Scorsese, che lo ha paragonato ai fratelli Marx addirittura, Robert De Niro, Morgan Freeman, David Lynch, eccetera eccetera, anche Billy Crystal. Quelli che invece erano assenti non hanno voluto comunque mancare, hanno mandato un bel video messaggio ironico, e tra questi c'erano appunto Steven Spielberg, George Lucas e anche Clint Eastwood. Poi un simpaticone, uno degli ospiti, ha voluto fare una battuta, quindi chi di battuta ferisce praticamente ha detto al povero Mel: ci mancherai tanto Mel, riposa in pace amico mio. Però Mel Brooks non è morto, era lì presente, e magari ha detto: ecco, non sono ancora morto, i film mi hanno salvato la vita e a noi ci hai fatto fare un sacco di risate, quindi grazie Mel. Ci siamo? In regia stanno dormendo, oggi. Meryl Streep con Mamma Mia, da Broadway, da Hollywood, arriva direttamente su Movieland. Here I go again, my, how can I resist ya? Mamma mia, does it show again? My, just how much I missed ya. In effetti mi ero scordato che significa volere bene. Mi ero scordato. Ero destinato alla sensibilità. Ero destinato a diventare uno scrittore. Ero destinato a diventare Geppo Gambardella. Auguri Geppo! Auguri Roma! Questa è la mia vita. Non è niente. Io ho scritto un solo romanzo 40 anni fa che non si trova neppure nelle librerie. Ma che cazzo dici? Che era un capolavoro assoluto l'apparato umano. Sai che faccio delle foto? A me stessa. Vuoi vederle? Certo. La più consistente scoperta che ho fatto pochi giorni dopo aver compiuto 65 anni è che non posso più perdere tempo a fare cose che non mi va di fare. Sei cambiato. Stai sempre a pensare. Com'è il minestrone Geppino? Ma tu come mi hai chiamato Geppino? Nessuno mi chiamava più così da secoli. Sento vecchio. Giovane non sei. Insegnerò ad notizie, certo. Riuscirò. A Movieland è arrivato il momento di parlare di grande cinema italiano e lo facciamo con un film che è uscito il 21 di maggio ma che ancora è in tutte le sale o in moltissime sale d'Italia. È La grande bellezza di Paolo Sorrentino e è andata a vederlo per noi Sara da Venezia che ci accompagnerà durante le settimane con tutte le prime visioni eccetera eccetera e farà una piccola recensione, un piccolo collegamento, parleremo insieme del film e Sara l'abbiamo in linea. Ciao Sara. Ciao Emanuele, ciao a tutti. Raccontaci, sei stata a vedere appunto La grande bellezza? Sì, sono stata a vedere questo film e è un film che offre un sacco di spunti, è un film che secondo me bisogna andare a vedere preparati, avendo già letto qualcosa su questo film, essendosi un po' documentati, perché è un film che spiazza, diciamo, in un certo senso. È un film un po' amarotico, che racconta la vita e le domande di una generazione passata che in realtà rimpiange molto e non vuole fermarsi a vedere qual è la propria realtà. Ora vi do alcuni spunti, ecco, alcune riflessioni che io ho fatto di questo film. Non vi racconto la storia perché quella la potete leggere ovunque. Vi racconto alcune sensazioni che io ho vissuto mentre lo guardavo. Mi sono piaciute molto le parti non parlate, che sono molto lente, dove ci sono queste vedute bellissime di Roma, e il film è anche permeato da un certo surrealismo e da un'immaginazione che definirei quasi mistica, viste anche le musiche che vengono utilizzate nel film. E tutto sommato alla fine c'è anche come una rassegnazione, perché tutti sanno, tutti vedono, ma è più semplice fare spettacolo piuttosto che vivere una vita reale e vivere sentimenti reali, è molto più facile vivere delle sensazioni. Ci sono anche questi contrasti fortissimi tra momenti di grande purezza e momenti di grande perversioni e di grandi solitudini. Sì, scusami, il film parla della mondanità di Roma, delle grandi feste organizzate, della sì, Roma bene. Parla anche della solitudine delle persone, parla dell'invidia, parla del parlarsi alle spalle, parla di tante cose. E quindi è riduttivo, ecco, dire che assomiglia alla Dolce Vita di Fellini perché parla di Roma e la fa vedere in un certo modo, perché è un film che dice molto e che può significare molto per ognuno di noi. E vedremo un Carlo Verdone in una veste diversa, non un Carlo Verdone che fa ridere, ma un Carlo Verdone che fa pensare, e l'attore comunque straordinario di questo film, oltre a tutti gli altri che sono molto bravi, ma quello che è il protagonista è Tony Servillo, che fa veramente una parte molto bella e che dà degli spunti veramente interessanti. Non resta quindi che andarlo a vedere questo bellissimo film, appunto La grande bellezza di Paolo Sorrentino, che sarà ancora nelle sale per un po' di tempo. Andatevelo a vedere perché sicuramente è un bellissimo film italiano che è destinato a vincere tanti premi, come ci ha abituato poi alla fine Paolo Sorrentino. Noi ringraziamo Sara perché tutte le settimane ci accompagnerà con queste sue recensioni da Venezia e la ringraziamo. Ciao a tutti, ci vediamo la settimana prossima. Alla settimana prossima, noi continuiamo con Movieland. Vedere che non è un gioco, fargli capire quello che vuoi. È un po' troppo per la domenica mattina? Vi ancora ricordate quelli di ieri sera della discoteca? E vabbè, per darvi una svegliata, perché non si sa mai, la domenica uno tende sempre a dormire un po' di più. Questa è la bellissima canzone di Bob Sinclair e Raffaella Carrà, di Raffaella Carrà prima, Bob Sinclair l'ha remixata nel 2011, e Paolo Sorrentino invece l'ha scelta come colonna sonora della festa di compleanno per Jeff Gambardella, appunto, nel film La Grande Bellezza, e noi ve l'abbiamo riproposta. Parlando sempre di grande cinema italiano e internazionale, non possiamo fare a meno di darvi una notizia. Infatti Rai 3 inizia appunto da stasera, proprio da stasera, domenica 9 giugno, l'appuntamento di Rai 3 con il cinema d'autore, film italiani in prima visione TV, opere di autori internazionali, film premiati ai maggiori festival, registi esordienti e documentari d'autore, una panoramica sul migliore cinema in circolazione che mescola generi e provenienze geografiche per una selezione di grande qualità. E quindi è questo che mette in campo Rai 3 con l'amministratore delegato di Rai Cinema, Paolo Del Brocco, che dice: sono convinto che il cinema sia importante anche in televisione, il servizio pubblico deve sapersi rivolgere ad ogni tipo di spettatore, anche a chi ama il cinema di qualità, e credo che sia proprio il pubblico della terza rete quello che più potrà gradire un'offerta di questo genere. Benissimo, e quindi da stasera, da stasera domenica 9 giugno, ogni domenica in prima serata ci sarà un bel film italiano o internazionale. Stasera ci potremmo vedere appunto The Tree of Life di Terrence Malick, Palma d'Oro a Cannes del 2011, in onda in prima serata e per la prima volta in chiaro in Italia. Per quanto riguarda invece gli autori italiani esordienti e non, Alessandro Angelini, Antonio Capuano, Roberta Torre, Alice Rohrwacher, spero di averlo detto bene, Gianni Di Gregorio, Francesco Laghi, Daniele Vicari, Ascanio Celestini, eccetera eccetera eccetera. E quindi una bella rassegna di cinema d'autore che ogni domenica sera Rai 3 metterà in campo. Adesso però basta di parlare di cinema d'autore, di cose serie. Ci ascoltiamo da Che bella giornata di Checco Zalone, L'amore non ha religione. Buon ascolto. È arrivata una magia proprio nella vita mia, agli occhi neri il musulmano che ama me. Io pugliese di madre tarantina, lei francese di madre bina, sta con me, che male c'è? Piccola burchina mia, io voglio la monogamia e non le voglio quelle altre tre, io sposo solo te. Non è uno scontro di religioni, è che ho tuo suoceri tra i coglioni. Sai com'è? Amo te, solo te. Si ingrassano, io invece sto tranquillo perché il Ramadan è una cosa esatta, non diventi chiatta, se non cucini maiale che importa, ma stai attenzioni lì cuore. Signor Gatsby, vorrei tanto sapere chi è lei esattamente? Gatsby, nessuna potenza avrebbe potuto scalfire la fiaba che aveva rinserrato nel suo cuore. Vivremo qui, in questa casa. Tu e io. Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? I know you will. Tutto questo è solo frutto della tua immaginazione. Ma ebbi l'inquietante sensazione che custodisse dei segreti. La mia vita deve mirare in alto. Deve andare avanti. Era andato oltre Daisy. Era andato oltre ogni cosa. Un simile individuo andrebbe castigato. Non voglio tornare a casa mia. Non ci tornare. Il grande Gatsby, il grande Gatsby, questo era il trailer, come vi sarete accorti certamente, e cosa volevate che si fosse. Bene, vabbè, ce la farò, con i verbi ce la farò oggi. Quindi questo era il grande Gatsby, che è al cinema in questi giorni, quindi chi volesse può andarlo a vedere. Grandissimo Tobey Maguire, grandissimo DiCaprio. DiCaprio, vogliamo proprio parlare di Leonardo, il Leonardo internazionale, possiamo dire. Leonardo DiCaprio infatti ha avuto una seconda giovinezza, diciamo una seconda botta di successo negli ultimi anni. Infatti sta facendo tantissimi film e appunto nel prossimo anno e mezzo ne devono uscire ancora due con Leonardo DiCaprio, di cui uno appunto dove lui interpreterà il mistico russo Rasputin, che era consigliere dei Romanov nell'impero russo dal 1907 al declino nel 1916. Il film ancora non ha una data certa per le riprese, però diciamo che sappiamo che verrà fatto appunto perché è stato comprato dalla Warner Bros. Un soggetto di Jason Hall, già scrittore di American Sniper. E poi vedremo anche il nostro amico Leonardo DiCaprio. Il 15 novembre del 2013 uscirà un film negli Stati Uniti che si chiama The Wolf of Wall Street, il lupo di Wall Street, dove appunto Leonardo interpreterà il broker di borsa Jordan Belfort. Quindi tutti i fan e le fan di DiCaprio siete avvisati. Quindi come parlare di DiCaprio però senza parlare di Titanic. Titanic è DiCaprio. DiCaprio e Titanic, Titanic e DiCaprio. E questa è la bellissima canzone invece, la colonna sonora, My Heart Will Go On di Celine Dion. Buon ascolto insieme a Emanuele fino alle 13 su Web Radio Network in compagnia di Movieland. Buon ascolto. Dreams, I see you, I feel you, that is how I know you go on, far across the distance and spaces between us, you have come to show. Thank you.

E Movieland è anche un programma di collaborazioni, infatti abbiamo iniziato una collaborazione che sicuramente sarà proficua e interessante con il portale di cinemafilmup.com, che potete trovare appunto all'indirizzo www.filmup.com, dove ci sono tutte le notizie sul cinema, gli ultimi film in sala, gli home video, notizie sulle celebrità, un po' di gossip, potete scaricarvi poster, le foto, i trailer, insomma un portale completamente a vostra disposizione per tutti i cinefili che vogliono appunto tenersi informati fino all'ultima notizia. Insieme a FilmUp andremo a raccontarvi ogni settimana un po' di quello che sta succedendo nelle sale italiane, ma nel cinema anche un po' in generale. Lo faremo insieme a Erika Melis, che è la coordinatrice di redazione. Pronti? Ciao Emanuele. Ciao Erika, come va? Tutto bene? Tutto bene, finalmente c'è il sole, per cui benissimo. Benissimo. Di che cosa parliamo con voi di FilmUp? Praticamente iniziamo con un po' di gossip cinematografico, perché da Hollywood ci arrivano notizie riguardanti i prossimi film di James Bond, release sempre molto attese dal pubblico, ma c'è una curiosità. Sì, è una curiosità che tra l'altro riguarda una bellissima e bravissima attrice, Penelope Cruz, che in pratica sarà la prossima Bond Girl e stabilirà anche un record. Praticamente sarà la Bond Girl più vecchia, passatemi il termine, che reciterà in una serie di James Bond. Se li porta bene, quanti anni ha? Compirà praticamente 40 anni proprio nel 2014, quando verrà registrato il 24esimo episodio di 007. Ah, classe 1974. Come me, è una buona annata. Sì, è un'ottima annata. Lei se li porta benissimo, veramente. Benissimo. Parliamo un po' dei film in uscita. È una settimana interessante per quanto riguarda le sale cinematografiche. Quali sono i film in uscita? Sono tantissimi, magari ti indico solo quelli che possono interessare un pochino di più i vostri ascoltatori. Sì. Tipo il trailer The Bay, che è un thriller di Levinson ambientato in una piccola cittadina di mare dove in seguito all'avvelenamento delle acque succedono dei fatti tremendi. Poi abbiamo anche un originale Holy Motors, in cui abbiamo due attrici del calibro di Eva Mendes e di Kylie Minogue. Inoltre, per i più giovani, arriva in sala anche Voices, è una commedia musicale che ha per protagonista Anna Kendrick di Twilight. La giovane Anna interpreta Becca, che sarà alle prese con la guerra tra dei cori tra college. Oltre questi film abbiamo un graditissimo ritorno in sala per la serie dei grandi classici Disney. Avremo praticamente tornerà in sala Il libro della giungla e viene riproposto in versione digitale. Ma sicuramente il pezzo forte della settimana è il blockbuster americano After Earth, dopo la fine del mondo, che ripropone sul grande schermo una coppia già vista nel 2006 con La ricerca della felicità, Will e Jaden Smith, che interpretano, come nella vita reale, padre e figlio. Interessante, quindi Will Smith torna a recitare con suo figlio. Di che cosa parla il film? È un film di fantascienza ambientato tra mille anni. Praticamente i nostri protagonisti devono effettuare un atterraggio di emergenza sulla Terra, che era appunto disabitata da questi mille anni, perché era stata abbandonata dagli umani in seguito a un cataclisma. Mm-hmm. Una Terra completamente irriconoscibile, selvaggia, con creature strane e pericolose, e loro, gli unici due sopravvissuti della missione, dovranno sopravvivere in questo ambiente ostile. Si presenta molto interessante e molto avvincente, quindi molto spettacolare. Sì, tutti gli ascoltatori, mi raccomando, andate a vedervi After Earth con Will Smith, che è nelle sale proprio in questi giorni. Diamo adesso un'occhiata al box office. Quali sono i film che hanno incassato di più di questa settimana appena trascorsa? Sicuramente il film in assoluto che ha incassato di più è Una notte da leoni 3. Il film ha avuto un ottimo debutto e ha incassato in Italia oltre 6 milioni di euro, per cui insomma, viste le cifre piuttosto basse dell'ultimo periodo, certo, è una ragguardevole cifra. E sul podio del nostro box office abbiamo anche altri due film molto interessanti. Fast and Furious 6 si porta a casa, nonostante sia ormai nelle nostre sale da qualche settimana, si porta a casa comunque 2 milioni di euro. E infine c'è La grande bellezza di Sorrentino. Benissimo, infatti della grande bellezza ne parleremo in questa puntata, così come di Fast and Furious 6. Io intanto ringrazio Erika Melis che ci ha fatto questo bellissimo trascursus nel panorama cinematografico italiano per il portale FilmUp, che vi ricordo lo potete trovare all'indirizzo www.filmup.com. Ti ringrazio Erika, ci sentiamo la prossima settimana. Grazie a te e saluti a tutti. Skyfall, la bellissima colonna sonora di Agente 007, Skyfall appunto, cantata da una bravissima Adele che fa venire la pelle d'oca e che ha vinto per questo bel brano, ha vinto anche l'Oscar come colonna sonora originale appunto di 007. Benissimo, bravissima Adele. Parliamo un po' dell'Italia invece adesso, perché vabbè, anche 007 ha scelto per un paio di volte l'Italia, è venuto a Venezia a girare, è venuto anche a Siena, e invece questa volta è la volta di Dan Brown. Infatti Dan Brown è a Firenze in questi giorni per presentare il suo ultimo libro, Inferno, che è uscito in contemporanea mondiale il 14 maggio in tutto il mondo appunto, e questa è la prima uscita in pubblico europea di Dan Brown, che è appunto a Firenze dove è ambientato il suo libro, e non ha, e ha detto detto praticamente che gli piacerebbe tantissimo che nel film, che verrà tratto dal libro come sempre, partecipasse tra il cast anche Roberto Benigni. Alla domanda del giornalista che ruolo gli farebbe fare, lui non ha saputo rispondere, ha detto Benigni è talmente grande che potrebbe fare qualsiasi cosa, quindi bene bene bene. Dan Brown vuole Benigni nel cast del prossimo Inferno, mentre invece i tour operator si sono subito scatenati a fare il a fare i sentieri, gli itinerari sulle tracce di Dan Brown, appunto, del film di Firenze, quello che si dice appunto il turismo cinematografico. Benissimo, adesso continuiamo con un'altra canzoncina, questa un pochino più leggera, viene da qualche anno fa, Shrek, la colonna sonora di Shrek, sono gli Smash Mouth con I'm a Believer. Buon ascolto su Movieland. Saw her face. Saw her face. Now I'm a believer, and not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Saw her face. Now I'm a believer, not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace. Si occupa solamente di Hollywood, di grandi star, ma si vuole occupare anche del nostro cinema italiano, dei tante nuove leve che stanno cercando di trovare il loro posto appunto in questo mercato non così facilissimo. Oggi parliamo con una ragazza che è di Firenze, che ha preso il coraggio a 27 mani e è andata a Roma a provare fortuna dopo aver studiato tantissimo e essersi impegnata moltissimo in teatro. Salutiamo Elena Miranda. Ciao. Ciao, come stai? Tutto a posto? Bene, molto bene. Benissimo, allora quindi dicevamo che tu stai cercando la strada del successo, per farlo ti sei trasferita, hai studiato tanto. Quando hai preso la decisione appunto di trasferirti e di cambiare la tua vita per cercare un'opportunità? Allora, io non avevo mai preso seriamente in considerazione Roma finché non ho fatto, non ho avuto la fortuna di fare qui a Firenze un corso di doppiaggio con due dei più grandi doppiatori italiani, che sono Roberto Pedicini e Cristian Jansante. Dopo aver fatto il corso con loro, avendo capito anche che Roma è l'unico vero centro di doppiaggio che noi abbiamo a livello nazionale, ho preso la decisione, ho detto ok, anche su suggerimento loro, che mi hanno detto guarda, potresti avere qualche opportunità, vai. E quindi ho preso la valigia a 27 mani e sono partita. Quindi tu partecipi a molti casting, come scegli i ruoli che fai? Sì, perché comunque non ho smesso neanche di continuare a recitare, a tentare la strada sia del teatro che del cinema. La strada verso la scelta dei casting è stata un po' ardua, nel senso che all'inizio, quando sei molto giovane, sei molto inesperto e ogni volta che vedi un annuncio di casting pensi semplicemente a prendere e mandare, spammare il tuo curriculum ovunque. Col tempo poi riesci invece a capire che è uno spreco di energia per te ed è una grossissima perdita di tempo dall'altra parte per chi ti deve selezionare eventualmente, e che poi alla fine finisce anche per odiarti probabilmente, perché se gli capita di fare più casting durante un anno e vede sempre il tuo nome, insomma non è che gli faccia proprio una bella impressione. Cerco di non prendere parte a cose che magari non mi raccontano niente. Certo, certo. E tu hai studiato dal 2004, hai studiato teatro a Firenze, e subito dopo, dal 2005, hai iniziato con spettacoli teatrali, e dal 2005 che hai fatto tantissimo teatro. Ho visto dal curriculum, hai fatto anche un po' di cinema, di televisione, insomma, mi dicevi che vorresti provare di più a introdurti nel mondo del doppiaggio. Cos'è per te il doppiaggio? Il doppiaggio per me è stato innanzitutto una bellissima scoperta, perché oltre alla grande passione per la recitazione, io ho sempre portato avanti una enorme passione per le lingue e lo scambio culturale, visto che poi comunque ho la fortuna di parlare cinque lingue ed ho avuto anche l'opportunità di lavorare dietro alla base del doppiaggio, nel senso non dando semplicemente la voce a qualche personaggio al cinema piuttosto che in televisione, ma lavorare proprio sul cartaceo, cioè sul copione, sì, che poi va nelle sale per essere doppiato. Mi sono accorta che a me piace da impazzire anche semplicemente il lavoro che sta dietro, alla base di tutto questo, certo. E quindi anche lo shift culturale e linguistico che si deve fare per arrivare a rendere un prodotto cinematografico o televisivo fruibile al pubblico della tua cultura madre, della tua lingua madre. Questa è una cosa molto affascinante, secondo me. Ci sono a volte frasi intere che devono essere completamente ribaltate, perché se venissero tradotte così semplicemente non significherebbero niente, ed è molto bello vedere questo cambio e sentire che poi magari quella trovata che tu hai avuto alle una di notte mentre sei lì che stai sudando su un copione che devi consegnare il giorno dopo, poi la senti al cinema. Quale pensi sarà la tua strada? Penso di sentirmi in un momento in cui sono nuovamente aperta a tutte le possibilità, perché si dice, no, che gli attori a volte passano dei periodi in cui preferiscono stare lontani dagli occhi. Quindi io ho vissuto questo periodo in cui ho preferito stare lontana dagli occhi e magari un po' più vicina alle orecchie del pubblico, lavorando quindi sulla voce e sull'audio. Invece adesso mi sento di aver ritrovato un momento in cui ho voglia di sperimentarmi e soprattutto provare un po' di più la recitazione di fronte alla macchina da presa. Benissimo, noi ringraziamo Elena Miranda per essere stata con noi, ti facciamo tutti gli in bocca al lupo possibili ed immaginabili, e ricordo che Elena Miranda, se vi interessa approfondire la sua conoscenza, ha un profilo sulla pagina voci.fm, quindi andate sul sito, cercate Elena Miranda e trovate la sua scheda. Io la ringrazio ancora e la saluto. Ciao. I could stay awake just to hear you breathing, watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing, 'cause even when I dream of you, the sweetest dream would never do, I'd still miss you, baby. I don't want miss a thing, così cantano gli Aerosmith, capitolati dal grandissimo Taylor. Questa canzone, anche questa, fa parte di una colonna sonora, la colonna sonora del film Armageddon, uno dei tanti film catastrofici hollywoodiani, che aveva per protagonista, non mi viene mai, mi viene Mel Gibson e non era. Comunque, voi sapete chi c'aveva come protagonista, no? E insieme c'era Liv Tyler, benissimo, Bruce Willis, eccolo qua, Bruce Willis, vedi che poi alla fine mi arriva, no? Grazie alla regia per avermi appunto suggerito. Benissimo, volevo dire appunto che i gruppi hard rock, quando decidono di scrivere una ballata, una canzone d'amore, lo fanno veramente bene e esce fuori un capolavoro, è uno spettacolo questo I Don't Want Miss a Thing. Benissimo, noi siamo arrivati alla fine, ragazzi, prima puntata di Movieland. Io credo che sia andata abbastanza bene, però ditemelo voi, potete scrivermi a movieland.radio@gmail.com. Io sarò di nuovo con voi la settimana prossima di sabato. Oggi è di domenica perché sono successi dei problemi tecnici ieri pomeriggio e quindi abbiamo dovuto rimandare appunto a questa mattina, però normalmente l'appuntamento con Movieland è il sabato dalle 18 alle 19, quindi saremo di pomeriggio, il precena che vi accompagnerà verso poi la serata con tanti buoni film. Magari volete andare a vedere un film il sabato sera, io ve lo consiglio il sabato pomeriggio. Benissimo, allora grazie per avermi seguito, vi do l'ultima notizia solamente, praticamente tanto in tema di romanticismo, perché questa canzone è romantica, quella che viene dopo è ancora più romantica, e quindi noi vogliamo parlare di regalo di compleanno. Ebbene sì, infatti Brad Pitt ha regalato a sua moglie Angelina Jolie un bel completino super sexy, un hot lingerie come l'ha definito lui, l'ha definito anche un po' sconcio sinceramente, che ha pagato ben 3.000 sterline. 3.000 sterline per Brad Pitt sono come 20 euro per noi, però vabbè, comunque il regalo è stato graditissimo da Angelina, che come sappiamo si è fatta fare una doppia mastectomia per appunto prevenire il rischio di cancro al seno. Sarebbe come tagliarsi la testa per prevenire il mal di testa, però vabbè, succede, queste star fanno di questo e anche di altro. Quindi Brad Pitt ha regalato questo bel completino hot lingerie da 3.000 sterline alla moglie, che dice che sia scoppiata in lacrime, perché comunque dopo l'intervento che ha subito è stato un grosso attestato di amore e di stima da parte di Brad Pitt. Come rimanere appunto insensibili verso cose come queste? Sì, è vero. Questa è un'altra canzone d'amore. Siccome è lunga, ci parlo un po' sopra, anche se non si dovrebbe fare in radio. Io vi saluto, vi do appuntamento a sabato prossimo dalle 18 alle 19 insieme a Emanuele, insieme a Movieland. Questo è Web Radio Network. Ci sentiamo la settimana prossima. Seem to understand.